Crazy bitch. Pixel. Bar de Blanca Records. Hey. E questo è... Dai, forse sono soft. Forse non ci sono di testa, dai, non mi interessa un cazzo. Hey, Pixel, from Pixel Cuto, Bar de Blanca Records. Hey, Pixel. Cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta di ciucce ti prosciuga. Mi sono perso, cerco aiuto. Pixel Rap Man, se persino un po' a posto sperduto. Mamma mia, che aiuto puoi darmi? Se stai messo peggio di me, te stai tendo ad impiccarmi. Cerca uno psichiatra, promettimelo. Cerca pure i soldi per pagarmelo. Sai com'è? Pixel Rap, dammi money. Compro tanta Coca-Cola, poi mi fuffo ai polmoni. Cerco una musicista, una donna per bene. Cerco una musicista che me lo so suona bene. Cerco un fegato nuovo, cerco qualcosa di nuovo. Ora tutti insieme, di nuovo. Cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciucce e ti prosciuga. Cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciucce e ti prosciuga. Cerco una tipa straricca, italiana, americana, mi va bene pure greca. Cerchi incontri d'amore su Facebook, mamma, poi ti danno appuntamento fake come su Badoo. Se anche tu sei scimmiato perso, vendo scimmie d'alcol, droghe pure sesso. Cerco una babba dante rumena, cerco i soldi per tatuarmi tutta la schiena. E che pensi, man, la paranoia mi si accentua. Cerco la svolta per andare via da qua. Distruggo tutti i tuoi castelli sulla sabbia. La pista mi si stoppia mentre la testa scoppia. Loro cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciucce e ti prosciuga. Cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciucce e ti prosciuga. Cerchi me, Pixel Rap. Cerchi figa, cerchi birra. Cerchi troia, cerchi soldi e droga. Questa scimmia brutta ti ciucce e ti prosciuga.